minuto 07, sai che non c'è match. Quando BUG ti fa pure lo scratch. Con Biolo H di Bagi, BUG dall'esilio volontario. Questa è l'Italia. L'Italia è il paese. L'Italia è il paese che è. E come per un quadro vedo meglio da lontano il cosiddetto bel paese che sprofonda piano piano in sabbie mobili e rabbie ignobili, solo gabbie dove stare immobili. Panem e Circensem come sempre, campioni del mondo che raschiano in fondo, rischiando il tracollo ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, girando ancora in tondo, intorno solo un puzzo nauseabondo. Puzza di morte che si propaga, giunge da ogni parte, il tuo destino appeso a un cumulo di carte, e gli intrallazzi nei palazzi sono pezzi d'un mosaico più complesso, comprendente tanto il nero quanto il rosso. È un paradosso, eppure troppo spesso passo sopra questa pizza e ci rimango sotto. Buio fitto, il fatto che l'effetto di sta storia è che a sto punto me ne fotto. E allora basta! Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa. Basta! Certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! Basta! Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa. Basta! T'ho detto, certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! Le nubi fosche oscurano anche l'arcobaleno, e dopo averci steso cantano uno di meno e fan quadrato, col braccio destro alzato e bello teso. Ed ora sono meno umano ed anche più indifeso, preso nel circo di quest'odio da cui non c'è rimedio, coscienza che rimane sotto assedio tipo stadio. Lo studio mi riporta verso il caos ed il fastidio. L'italiano medio è fascista a tempo perso, si porta spesso appresso ancora adesso il proprio olio di ricino light. Non si sa mai, siamo tolleranti e questo già lo sai, ma che paura tutti questi gay, transessuali, negri, musulmani e comunisti. E questi poi davvero chi l'ha visti? I 5-6 rimasti sono posti in quarantena, messi a letto senza cena dal papà che veste cashmere mistolana. Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa. Basta! Certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! Basta! Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa. Basta! T'ho detto, certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! In Parlamento siede gamba di legno, insieme a Macchia Nera che guadagna sostegno. La banda Bassotti ci si mette d'impegno, propone il disegno d'un indulto da sogno. Italica politica, roba da cartoni, bisogna che ti stroni con dei trip di quelli buoni, perché hanno dalla loro anche Manetta e Basettoni, ed il topo è sulla lista come il primo degli infami. L'ultimo che usciva sul balcone a dire troppe puttanate, ci abbiamo messo un top però alla fine se ne prese di mazzate. Ma ancora non è stanco il popolo del grande porco bianco, che sbanca ogni domenica, ti caccia la sua predica, discrimina, indottrina, fa polemica, ti giudica, si intromette nella cosa pubblica, non ammette replica, ammazza l'etica, è d'abitudine pontifica. Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa. Basta! Certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! Basta! Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa! Basta! T'ho detto, certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! E allora basta! Certo, scendo di testa! La storia resta sempre la stessa! Basta! Certo, scendo di testa! Col cazzo che st'Italia si desta! Basta! Certo, scendo di testa! Storia resta